Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Signore, io sono stato suo ammiratore da sempre. Quando c'era un film suo io correvo, andavo sempre al cinematografo. Io sono proprio un suo fan fin da quando ero bimbo. Oh, aspetta, bimbo. Che? Quando eri bimbo tu, io non ero ancora nata, Mi scusi, signora. No, dico. No, io l'ho detto così per dire che è tanto tempo che io sono un suo grande ammiratore. Grazie. Ecco. Scusi, signora. E non mi chiami signora? No. Anzi, chiamami signorina, oppure siccome sono signorina, sì. Mi fa piacere che tutti i miei vecchi ammiratori mi chiamano confidenzialmente per nome. Sì. Perciò chiamami pure Silvana, anzi, sì. Silva. Silva, dice Silvana Pampanini, che se n'è andata a 90 anni. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, la grande, bella e anche ironica Silvana Pampanini, che in quest'ultimo film che ha fatto con Sordi, Il Tassinaro, praticamente interpretava se stessa, l'avete sentita appunto. Chiamami Silva, sempre con la mia bronchite, in pessima forma, rieccomi a voi il giorno della Befana, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Parleremo di un sacco di cose. Questa era, diciamo, una nota di poesia della Pampanini che ci ha lasciati. Con meno poesia, diciamo, ha iniziato il nuovo anno la Corea del Nord, nel senso che per celebrare il nuovo anno, che cosa ha pensato bene di fare Kim Jong-un, il massimo leader, insomma, della Corea? Invece che stampare una bottiglia di spumante, una bottiglia di champagne a seconda dei gusti, un piccolo petardo, dei fuochi artificiali, ha deciso di celebrare il nuovo anno facendo scoppiare la bomba a idrogeno. Almeno così ha detto Kim. Iniziamo il 2016 con il suono emozionante della bomba, appunto per questione di gusti, come vi dicevo. Però ci sono dei dubbi, a parte che ha fatto naturalmente preoccupare un po' tutto il mondo, ci sono dei dubbi che effettivamente si sia trattato di una bomba a idrogeno DOC, diciamo. Poi ne parleremo con un esperto, comunque è un fatto grave, oppure chissà se è soltanto un fatto, diciamo così, un'espressione di bullismo geopolitico. Dopodiché ci occuperemo anche in questo giorno della Befana di molte altre cose, per esempio di questa inchiesta sul comune di Quarto, vicino Napoli, comune a 5 Stelle, perché la giunta, la sindaca del Movimento 5 Stelle, c'è un'inchiesta che è emersa, diciamo, in modo eclatante dal 22 dicembre scorso. Si parla di infiltrazioni camorristiche, secondo alcune intercettazioni telefoniche. Il Movimento 5 Stelle però replica, ha replicato in serata, per ora sembra che ci sia stato un certo silenzio, però ha replicato: noi siamo parte lesa. E ci sarà qui a Effetto Notte più tardi proprio la sindaca di Quarto, Rosa Capuozzo, che raggiungeremo. Poi parleremo anche di molti altri temi, ci collegheremo anche con Las Vegas per gli appassionati, e non solo per gli appassionati di nuove tecnologie, perché lì c'è questa fiera di tutti i nuovi prototipi che potranno essere in vendita entro un anno, chissà quali meraviglie. C'è un nostro inviato col quale ci collegheremo. E poi vi volevo sottoporre, fra gli argomenti, mi ha fatto piacere intanto che avete continuato a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito dei fatti di Colonia di Capodanno, su questa polemica, su queste molestie sessuali di massa subite dalle donne da, secondo le forze dell'ordine, cittadini extracomunitari. Comunque, ho visto molti altri vostri messaggi. Questa sera mi piacerebbe che commentaste invece la ridiscesa in campo, almeno così a parole, del leader di Forza Italia Berlusconi, che ha detto: Renzi governa con una maggioranza illegale, con una maggioranza illegale moralmente inaccettabile. Il premier non solo governa, ma si permette di cambiare le carte come la Costituzione per costruire un sistema di potere su misura per se stesso, un vero e proprio regime, dice Berlusconi a proposito del governo Renzi. Come commentereste queste dichiarazioni? 349-238-6666, come sapete, sempre il numero per gli sms, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Mentre voi viaggiate di ritorno magari dal vostro ponte della Befana, o andate verso il ponte post Befana, o state cucinando, lavorando, qualsiasi cosa stiate facendo, questo è il riepilogo intanto della giornata. La Corea del Nord fa tremare il mondo, test con la bomba a idrogeno, condanna dell'ONU che la definisce una grave violazione, ma ci sono dubbi che si tratti davvero della bomba H. Germania, le polemiche sulle aggressioni alle donne a Colonia, ad agire una rete di 1000 uomini di aspetto arabo-nordafricano. Migranti, paesi del nord sfidano l'Unione Europea, controlli o facciamo da soli? Vertice straordinario con Germania, Svezia e Danimarca. Inchiesta sul comune di Quarto, bufera politica sul Movimento 5 Stelle per le intercettazioni delle quali emergerebbero infiltrazioni camorristiche, ma il movimento replica: siamo parte lesa. E questa sera ci sarà Effetto Notte la sindaca Capuozzo. I laureati italiani, secondo Eurostat, sono solo poco più della metà di loro trova lavoro a 3 anni dal titolo. Addio Silvana Pampanini, la miss del cinema popolare, se n'è andata a 90 anni ed è morto Pierre Boulez, maestro della sinfonia moderna. Calcio, volano Fiorentina e Juve, adesso vedo che anche l'Inter passa, mentre KO del Milan, la Roma spreca, in campo il Napoli. Napoli che vedo ha fatto un gol sul Torino, 1-0 per il momento, ma partiamo dalla sfida della Corea del Nord che alle 2:01 ora italiana avrebbe compiuto un test nucleare con una bomba a idrogeno. I sismografi in Corea del Sud, in Giappone e negli Stati Uniti hanno effettivamente registrato un terremoto da 5,1 gradi della scala Richter in Corea del Nord, a circa 50 km a nord di Kilyun, lontano dal confine con la Cina, e c'è stata un'immediata straordinaria riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di Pyongyang, anche se, come dicevo, esperti sia sudcoreani che americani per il momento nutrono dei dubbi che si sia trattato effettivamente di una bomba a idrogeno, e di questo parleremo tra poco con un esperto. Altro tema molto caldo in queste ore è quello delle aggressioni sessuali di massa subite a Colonia dalle donne da parte di un migliaio di aggressori la notte di Capodanno in Germania. La gran parte erano stranieri. La rabbia delle donne di Colonia diventa un terremoto nella Germania delle porte aperte. Le voci di chi reclama il diritto a non avere paura per strada dopo le aggressioni di massa di Capodanno travolgono la polizia e il sindaco e diventano un delicatissimo affare politico per Berlino. Gli inquirenti confermano che erano un migliaio gli uomini che avrebbero molestato un centinaio di donne e, come provano dei video, stuprato almeno due. Forse parte di una rete in azione tra Colonia e Düsseldorf, di cui solo tre sono stati identificati. La polizia ribadisce l'origine araba o nordafricana degli aggressori, e questo nel giorno in cui il Ministero dell'Interno conferma che 1.100.000 migranti sono entrati in Germania solo l'anno scorso, diventa fuoco per le polveri dell'estrema destra che guarda al voto di marzo in tre lenda. Ma lo stesso titolare dell'Interno è costretto ad ammettere che la polizia ha lavorato male e finisce travolta dalle polemiche e dagli sberleffi sul web la sindaca di Colonia, Henriette Richa. Per aver suggerito alle donne, per precauzione, di tenersi alla distanza di almeno un braccio dagli estranei. Consigli non richiesti che alimentano la rabbia di una Germania disorientata. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E inizieranno a fine gennaio in Calabria i lavori per la realizzazione del cimitero internazionale dei migranti, che sarà intitolato al piccolo Aylan Kurdi, il bimbo di 3 anni, vi ricordate, trovato senza vita sulla spiaggia della Turchia, le cui immagini shock hanno commosso tutto il mondo. L'opera, questo cimitero dei migranti in Calabria, sarà realizzato a Tarsia, nel Cosentino, grazie alla collaborazione tra il Comune, la Regione Calabria e il Movimento Diritti Civili. Il cimitero internazionale dei migranti, che è la prima opera del genere in Italia, si estenderà su un terreno di 10.000 metri quadrati e prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Questo perché? Perché ritorniamo sull'emergenza immigrazione. Oggi c'è stato un mini vertice straordinario sui controlli ai confini. We all agreed that the Schengen and free movement must be safeguarded. Tornare al più presto alla normalità, predica Bruxelles al termine del vertice nordico per fare il punto su ciò che resta di Schengen. Il commissario europeo agli affari interni Avramopoulos rassicura: abbiamo tutti concordato che Schengen debba essere salvaguardata, le misure messe in atto saranno mantenute per lo stretto necessario, dice, prima di affermare che al momento non ci sono notizie sulla possibile reintroduzione di controlli anche alla frontiera italo-slovena. Ma dei quattro presenti al summit, Avramopoulos sembra l'unico a credere davvero alle proprie parole. Almeno fino a metà gennaio Schengen resta azzoppato. Controlli alle frontiere sono stati reintrodotti in 6 paesi, tra cui l'intero blocco scandinavo, e controlli a campione sono in vigore in altri 6. La libera circolazione resta attiva in 12 paesi, la metà. Al vertice di Bruxelles la Danimarca chiede soluzioni comuni, ma intanto fa da sola e nega l'ingresso nel suo territorio a 36 profughi. La Svezia, che ha innescato la reazione a catena di chiusura delle frontiere a nord, chiede la piena implementazione delle regole di Dublino. E la Germania, che l'anno scorso ha accolto 1.100.000 rifugiati e che accusa in sostanza la Grecia di non essere in grado di controllare le proprie frontiere, sottolineando il fallimento della politica comune di immigrazione, prende atto della situazione. Ogni paese farà da sé, dice Berlino, se entro la primavera non terremo fede agli impegni presi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Palazzo Chigi difende Schengen, resta un pilastro nel percorso dell'unità europea. Noi siamo convinti, dice il ministro dell'Interno Alfano, che eliminare l'accordo non solo non risolve il problema, ma rischia di complicarlo. Alfano rimanda allora quanto sta facendo il nostro paese alla frontiera frontiera del nord-est abbiamo già aumentato la presenza di forze dell'ordine e di militari per controlli più efficaci e severi dal punto di vista dell'antiterrorismo. Impegnate, secondo fonti del Viminale, una ventina di questure, le rispettive Digos e le unità di polizia delle frontiere. No a scelte dettate dall'emergenza, dice su Schengen anche il sottosegretario agli affari europei Gozzi. Così si rischia il sogno europeo. Gozzi interviene quindi sul passo indietro di Zadra, l'unico italiano nel gabinetto Juncker. È un fatto inaccettabile, non facilita i rapporti. Da Bruxelles replica, affidata al portavoce Schinas: l'idea di usare i media per fare politica sul personale non è una buona idea, non lo è mai stata, dice Schinas. Per la commissione sono solo le qualifiche, i meriti e l'esperienza che contano, niente altro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Uno sguardo adesso alle borse, un'altra seduta difficile per quelle europee che solo ieri avevano cercato di recuperare dopo il lunedì nero. Milano ha accusato le perdite maggiori, l'indice principale, il FTSE MIB, ha lasciato sul terreno il 2,67%, Parigi ha perso l'1,2%, Francoforte lo 0,93%. E siamo alla politica, bufera politica sul Movimento 5 Stelle per le intercettazioni derivanti da un'inchiesta del PM Woodcock, dalle quali emergerebbero infiltrazioni camorristiche nel comune pentastellato di Quarto, vicino Napoli. Ma il Movimento replica: siamo parte lesa e, vi dicevo, ne parleremo più tardi qui a Fettonote con la sindaca di Quarto, Rosa Capuozzo. E poi questa notizia davvero sconfortante che riguarda le opportunità di lavoro che hanno i laureati in Italia. Solo il 53% dei laureati italiani, secondo dati Eurostat, lavora a 3 anni dalla laurea, rispetto a invece a una media europea che supera l'80%. Noi siamo solo al 53% invece a 3 anni dalla laurea. E parliamo adesso di 2AD. Prima di questo vedo un'agenzia della Banca Mondiale, vediamo che cosa dice. La Banca Mondiale taglia le stime di crescita mondiali per il 2016 e il 2017, tanto diciamo per stare in allegria. A pesare anche il rallentamento della Cina, il PIL mondiale crescerà quest'anno del 2,9% rispetto al 3,3% stimato in precedenza, questo secondo la Banca Mondiale. E poi vi dicevo 2AD, se n'è andata a 90 anni Silvana Pampanini. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con Arodò? Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. È una delle canzoni che l'ha resa celebre, perché la carriera di Silvana Pampanini iniziò proprio come cantante, poi come attrice, tanto che in alcuni film la sua voce veniva doppiata, tranne nel canto appunto. È stata l'attrice simbolo del dopoguerra italiano, ha incarnato l'ideale di bellezza insieme a Silvana Mangano e Lucia Busè poco prima dell'arrivo di Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Le cronache dell'epoca parlavano di molti cuori spezzati dalla Pampanini, dai flirt con principi e re a quelli con attori come Tyrone Power, Omar Sharif e Orson Welles. Famoso il corteggiamento insistente di Totò, respinto, tanto che per molto tempo si è pensato che la canzone Malafemmina fosse dedicata a lei, invece era stata ispirata dalla prima moglie di De Curtis. Più di 60 i film in cui ha recitato, fra i più noti il già citato Bellezza in bicicletta, I pompieri di Bijou, 47 morto che parla, La presidentessa e La bella di Roma. Fra le ultime apparizioni sul grande schermo, quella dell'83enne Il tassinaro di Alberto Sordi, dove interpretava se stessa. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tanto bello far l'amore. E si è andato alla stessa età, 90 anni, anche il celebre direttore d'orchestra, saggista e compositore francese Pierre Boulez. La scomparsa di Pierre Boulez è la scomparsa di uno dei grandi compositori e dei direttori d'orchestra del nostro tempo. Molti lo ricordano dal 71 al 77 come direttore artistico della New York Philharmonic Orchestra, o nel 79 alla Scala con un memorabile Lulu di Berg, o al Festival di Bayreuth, dove nel 66 debutta con Parsifal, ma innumerevoli sono le sue direzioni. Diciamo che fu un grande compositore, un protagonista della musica contemporanea, e giustamente nel 2012 vince il Leone d'Oro alla carriera per il settore musica della Biennale di Venezia, però fa conoscere quasi tutta la musica del Novecento con un piglio nuovo, da Debussy a Mahler, da Schoenberg a Stravinsky a Webern. Con lui ovviamente se ne va uno sperimentatore che con Stockhausen porta alle estreme conseguenze anche quella che è l'idea della composizione musicale, secondo quanto aveva dettato la scuola di Darmstadt. Come ricordarlo? Ricordarlo forse con The River del 1996, oppure con il balletto Mallarmé 3 in un atto del 1987 che andò in scena a Kiev, o forse meglio con Le Marteau sans Maître del 1955 che andò in scena appunto a Baden-Baden, dove è morto. Questa era una cantata in 3 cicli e 9 sezioni per contralto, arpa, flauto, viola, chitarra, vibrafono, xilo marimba e percussioni, tutti strumenti che sapeva mettere nel suo linguaggio innovativo. Armando Torno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di passare allo sport, volevo anche darvi una novità, in realtà se ne parla da diverso tempo, sul caso Cucchi. Adesso però c'è una dichiarazione proprio a voce al TG3, parla Anna Carino, ex moglie del carabiniere Raffaele D'Alessandro, indagato per la morte di Stefano Cucchi. Dice: la verità che so sul caso Cucchi, quello che lui mi ha raccontato, cioè il marito, che loro quella sera gliene hanno date tante. Sentiamola. Quello che lui mi ha raccontato, che loro quella sera gliene hanno date tante, questo è il termine che lui usava. Lui era spavaldo nel raccontarlo, cioè... Sì, purtroppo sì. Lo raccontava quasi vantandosene, forse si sentiva intoccabile, quindi ha voluto raccontare quella vicenda così, divertito. Alleggeriamoci con il nostro Dario Ricci e la sua incursione qui nello studio. Guarda, appassionato il Napoli che è 1-0 sul Torino per il momento. Ma pure te vedo ogni tanto un bilocchio, perché ti sto convertendo al grande football, caro Roberto. Prima della fine della stagione ce la faremo. Poi quest'anno ci saranno anche gli europei di calcio. Se lo dici, quindi, tu, Dario. Ma tra l'altro non c'è solo l'Inter, ci sono state varie usate tutta Serie la giornata della 18esima. Però aggiorniamo proprio sugli ultimi risultati, visto che l'Inter comunque va da questa sfida. Intanto Higuain sfiora il raddoppio, bravo Padelli a respingere. L'Inter conserva la testa della classifica perché i nerazzurri hanno vinto ad Empoli per 1-0 grazie alla rete di Icardi al 46esimo, e anche se i toscani hanno reclamato per un rigore su Pucciarelli apparso netto e non concesso, però e quindi l'Inter conserva la testa della classifica. In scia la Fiorentina, che ha battuto per 3-1 il Palermo in Sicilia, sconfitta che ha costato il posto a Ballardini. Il fogoso Zamparini ha richiamato sulla panchina del rosanero Iachini. E poi questo Napoli che al momento è in vantaggio 1-0 sul Torino grazie allo splendido pallonetto di Insigne al 15esimo. A quota 36 c'è la Juventus, che oggi ha infilato l'8ª vittoria consecutiva battendo il Verona per 3-0 e che quindi è in netta risalita. Arranca invece la Roma, bloccata sul 3-3 a Verona dal Chievo, e sprofonda il Milan più che in classifica perché è fermo a 28 punti, raggiunto dal Sassuolo che ha fatto 2-2 col Frosinone, ma sprofonda sul campo perché a San Siro passa il Bologna per 1-0, decide Giaccherini al 37esimo del secondo tempo. A questo punto panchina di Mihajlovic sempre più rovente. Sabato sera, pensa, c'è Roma-Milan, che potrebbe a questo punto decidere il destino o di Rudy Garcia oppure dello stesso Mihajlovic. Sì. Poi ci sono anche gli altri risultati, li ricordiamo al volo. Fare un elenco veloce, sì. Udinese-Atalanta 2-1, 0-0 tra Lazio e Carpi, e poi sì, basta così. Basta così, sì. Molto sintetico, più del previsto, Dario Ricci, però poi ci ritroviamo naturalmente verso la fine della trasmissione, così ci aggiorni anche su Napoli-Torino, ci ricordi anche gli altri risultati. Grazie Dario, adesso grazie invece guardavo un po' di risultati dei vostri messaggi, delle vostre riflessioni su le dichiarazioni di Berlusconi, che volevo precisare ha fatto a Telerama, che è una TV pugliese, e una ascoltatrice sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Ilaria, se non sbaglio, ha scritto, sì, eccola qui, Ilaria Luisa, ho tirato un sospiro di sollievo, per un attimo ho creduto che fosse un messaggio a reti unificate, però sotto sotto tutti i torti non li ha, perché ha detto che quella, è tornato a dire che quella di Renzi è una maggioranza illegale, dice lui, sta cercando anche di cambiare la carta costituzionale per costruire un sistema di potere a misura su se stesso. Maurizia dice: prima fa il patto del Nazareno Berlusconi, in cui era compresa anche la legge elettorale, adesso fa lo scandalizzato, ha proprio la faccia di bronzo, dice, per non dire altro. Poi Chiara: dico che non avrei mai pensato di poterla pensare allo stesso modo del Berlusca. 349-238-6666 per i vostri messaggi e per le vostre riflessioni su questa dichiarazione in particolare di Berlusconi, che è tornato a parlare con la Befana, diciamo nel giorno della Befana, è una TV pugliese. Oppure c'è sempre la pagina di Effetto Notte, pagina Facebook per voi. Ci risentiamo giusto dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Berlusconi, la TV Telerama, TV pugliese, ha detto questa sera, in collegamento con una maggioranza illegale e moralmente inaccettabile, il premier Renzi non solo governa ma si permette di cambiare le carte come la Costituzione per costruire un sistema di potere su misura per se stesso, un vero e proprio regime, dice Berlusconi a proposito del governo Renzi. Cosa ne pensate? Come commentate? Vedo i vostri messaggi che stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia gli sms al 349-238-6666. E dice anche Berlusconi, ho subito 4 colpi di Stato con la regia del Colle, in particolare responsabilità di Napolitano. Mentre voi continuate a fare le vostre considerazioni, qualcuna ancora la posso leggere così al volo, dice per esempio un ascoltatore, vi dico sempre, mettete almeno un nome d'arte, Berlusconi ha ragione, l'attacco becero a Banca Italia e Consob dimostra l'assoluta intolleranza di Renzi per istituzioni che lui non controlla o condiziona, trattasi pertanto di regime. Mi indicano col dito verso il televisore, Napoli-Torino 1-1, ha pareggiato il Torino, poco fa aveva dato risultato, adesso c'è un pareggio 1-1 nella partita di Serie A Napoli-Torino. Adesso però vi ricordo naturalmente anche le altre di notizie. Test con la bomba H della Corea del Nord che fa tremare il mondo, nell'area un sisma di 5,1 gradi Richter e l'ONU condanna e lavora nuove sanzioni per Pyongyang. I tedeschi sotto shock per le molestie a Colonia contro le donne a Capodanno, primi indagati, la polizia dice che 1000 hanno aggredito le donne, forse una rete organizzata. E poi migranti, sull'emergenza migrazione, il nord, i paesi del nord sfidano l'Unione Europea, controlli, devono farsi controlli o facciamo da soli, vertice, è stato un mini vertice con Germania, Svezia e Danimarca che chiedono di applicare Dublino. E poi vince l'Inter, a proposito della Serie A, volano Fiorentina e Juventus, il Milan fa crack contro il Bologna e poi vi dicevo poco fa Napoli-Torino 1-1. 주최 배고 2016년 1월 6일 10시 주최 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. Avete sentito con quale enfasi ha annunciato la TV nordcoreana della celebrazione di questo nuovo anno con la bomba H. Vi dicevo, invece di stappare una bottiglia di spumante o di champagne o qualche trick-track, insomma, ha deciso di celebrare questo avvio del 2016 con un test della bomba a idrogeno. È vero che esperti del mondo, sudcoreani, americani, non solo, nutrono alcuni dubbi, però ne parliamo con un esperto che Gian Andrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa e collaboratore del Sole 24 Ore. Ciao Gian Andrea. Sì, ciao, buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. Diamo anche spazio, scusami, visto che la Befana ha anche una battuta comica, sì, di un ascoltatore, Walter, che scrive: ma quale bomba all'idrogeno nordcoreana, sono effetti collaterali del piatto nazionale a base di fagioli consumato oggi per festeggiare Kim Jong-un, il leader massimo, insomma. Sì. Non so, c'è da scherzare o qui effettivamente c'è qualche rischio, nel senso, ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori, che un secondo dopo le due, alle due e un secondo ora italiana, i sismografi della Corea del Sud e del Giappone e degli Stati Uniti hanno registrato questo terremoto nell'area di 5,1 gradi della scala Richter, e effettivamente poi è arrivata una conferma, abbiamo sentito l'annuncio televisivo della Corea del Nord che ha detto che effettivamente ha fatto un test con una bomba all'idrogeno. In un successivo comunicato però la Corea del Nord ha detto: noi siamo uno stato responsabile, non saremo mai noi i primi a utilizzare armi nucleari né a trasferire tecnologie, il test è stato condotto in modo perfetto e sicuro, non ha avuto alcun impatto negativo sull'ambiente. E poi dice ancora Pyongyang: la bomba idrogeno della giustizia rappresenta un avanzamento nello sviluppo delle forze nucleari della Nord Corea, quindi gli Stati Uniti vengono definiti come una gang di crudeli rapinatori che ha imposto l'isolamento politico, il blocco economico e la pressione militare sul nostro paese con l'unica ragione di avere una differente ideologia e un differente sistema sociale. Gian Andrea Gaiani. Sì, beh, sai, la Corea del Nord fa come tutti i paesi che sono dotati di armi nucleari, lo considera e lo valuta come un deterrente. Disporre della bomba protegge il paese da attacchi esterni, e in effetti il regime nordcoreano è sopravvissuto in questi anni, pur essendo tra i principali stati canaglia, è sopravvissuto rispetto anche ad altri regimi cattivi ad attacchi esterni, proprio perché aveva la bomba. Questo è il suo quarto test atomico, il primo in cui dicono di avere utilizzato una bomba all'idrogeno. Gli esperti sono scettici perché si dice che le bombe all'idrogeno, le bombe H, essendo molto più potente della bomba a fissione, della bomba atomica, avrebbe dovuto generare una scossa tellurica maggiore. I coreani dicono che era una testata, era una bomba miniaturizzata. Insomma, nei prossimi giorni le analisi degli esperti, anche da campioni dell'aria, potranno forse darci qualche informazione tecnica in più, ma la sostanza non cambia. La Corea del Nord prosegue sulla strada del potenziamento del suo arsenale atomico. Qualcuno stima che abbia circa una dozzina di bombe atomiche. Bisogna capire se è in grado di usarle, nel senso che se ha raggiunto la capacità anche di metterle sui missili balistici che la Corea del Nord produce e addirittura ha esportato in questi anni. L'arsenale missilistico iraniano in particolare, ma anche quello pakistano, deriva direttamente dai missili balistici prodotti dalla Corea del Nord. Senti, il Consiglio di sicurezza dell'ONU si è riunito in, appunto, in seduta straordinaria e ha deciso che ci saranno delle sanzioni per questa chiara violazione. È stata condannata con una chiara violazione, insomma, delle regole internazionali, e adesso stanno pensando a quali possano essere queste sanzioni. E, tra l'altro, Ban Ki-moon, che è il segretario generale dell'ONU, è un sudcoreano, ha chiesto alla Corea del Nord di cessare immediatamente qualsiasi ulteriore attività nucleare, anche se detto così, insomma, non so quanta paura possa fare alla Corea del Nord. Tra l'altro, Andrea Gagliani, c'è Ted Cruz, che è uno dei candidati repubblicani alla Casa Bianca, ha detto: questo è un esempio, e in questo modo ha anche tirato un attacco diretto alla politica di Obama, alla risoluzione che è stata trovata per l'Iran, ha detto un esempio di ciò che accadrà con l'Iran, e ribadisce quindi la necessità di ribaltare l'accordo nucleare che è stato fatto con l'Iran. Sì, perché i repubblicani sostengono la posizione di Israele, che ritiene che l'accordo sul nucleare iraniano è un accordo che di fatto non impedirà all'Iran di dotarsi di una bomba nucleare. Io ho trovato molto più interessante, meno scontata, forse la dichiarazione di un altro candidato alle presidenziali, diciamo comunque alle primarie repubblicane, che è Trump, che invece ha chiamato in causa direttamente la Cina. Anche Pechino ha condannato pesantemente, con indignazione, il test nordcoreano, ma Trump ha detto una cosa difficilmente smentibile: ha detto la Cina deve disarmare, deve fermare la Corea del Nord. In fondo la Corea del Nord mangia, nel senso letterale del termine, la popolazione nordcoreana si nutre grazie al fatto che la Cina è il suo principale partner commerciale, cioè rifornisce la Nord Corea di tutto quello che serve per mantenere oltre 20 milioni di nordcoreani. E di fatto questo discorso non è del tutto sbagliato, perché ci ricorda che la Cina è il vero arbitro della situazione. La Cina, il grande partner della Corea del Nord, ha visto negli ultimi anni aumentare le dissidi con Pyongyang proprio in funzione, proprio a causa del programma nucleare nordcoreano, che mette in difficoltà gli equilibri strategici in quella zona dove la Cina vuole porsi come potenza stabilizzatrice di riferimento per tutta la regione. Ma quindi questo, il fatto di possedere delle armi atomiche, all'idrogeno, come le vogliamo chiamare, è un deterrente anche nei confronti della Cina, nel senso che la Cina non si metterà a chiudere i rubinetti a un certo punto a Nord Corea? Ma sai, il problema è questo, che la Cina è intervenuta negli anni durante la guerra di Corea a salvare il regime nordcoreano e da allora ha mantenuto la Corea del Nord sotto il suo ombrello nucleare, che la Cina ha sviluppato negli anni 50. Dal 2006, dal primo test atomico nordcoreano, la Corea del Nord si è chiamata fuori da questo ombrello cinese e fa da sola. Ha un suo arsenale nucleare, o dichiara di averlo, e quindi ha raggiunto un'autonomia che di fatto la sottrae dal controllo stretto politico e militare di Pechino. E in questo momento Pechino ha già molti fronti aperti con i suoi vicini, le contese per le isole, le Senkaku con il Giappone, le Spratly con gli altri paesi dell'area del Pacifico che si contendono il controllo di alcune di queste isole, e quindi un nuovo fronte gestito direttamente dai nordcoreani mette in difficoltà la sua ambizione di leadership regionale. Gian Andrea Gagliani, per chiudere, nessuno è passato per la mente prima o poi di eliminare, diciamo, di accantonare, di mettere nel ripostiglio Kim Jong-un? Ma io credo che gli unici che hanno la capacità di farlo dall'interno sono probabilmente i cinesi. devo dire che Kim Jong-un negli ultimi 4 anni, da quando ha il potere, ha fatto parecchie purghe e ha eliminato parecchi oppositori, alcuni anche in modi molto crudeli. Qualcuno che si era addormentato, ma anche dei collaboratori, io ricordo uno che si era addormentato, certo. Un altro che magari aveva starnuzzito troppo forte, non so, insomma, diciamo che è abbastanza irascibile. È il puro stile staliniano, insomma, l'ispirazione ideologica è quella, quel paese non è cambiato molto ideologicamente negli ultimi 70 anni. E chi può farlo forse sono proprio i cinesi, e nei prossimi giorni si apre il congresso del Partito dei Lavoratori, il partito unico della Corea del Nord, e forse qualche indirizzo anche di opposizione alla dittatura di Kim Jong-un potremmo anche vederlo. Sarà difficile poterlo notare perché la censura in quel paese è rigidissima. C'è però anche un aspetto di cui tenere conto, che comunque la dittatura nordcoreana finora ha abbaiato forte, ma in fondo poi grossi problemi non li ha mai creati. In fondo forse l'arsenale nucleare serve per aumentare la possibilità di negoziare della Corea del Nord. Un ricambio al vertice potrebbe anche avvenire al buio, e non è detto che il sostituto di Kim Jong-un sia più o meno malleabile di lui. Quindi dalla padella alla brace si potrebbe cadere per il momento, quindi tocca accontentarsi a volte, sì, fa buon viso a cattivo peggio, gioco. Figuriamoci. Grazie Gianandrea Gaiani, buon anno a te voi. Comunque sia. Ciao Gianandrea. Adesso, prima di questa breve pausa di ricreazione, passare agli altri argomenti. Dovremo raggiungere tra poco la sindaca di Quarto, vicino Napoli. Sapete che appunto il Movimento 5 Stelle è agitato da questa inchiesta su quel comune a 5 Stelle. Però prima qualche altro vostro messaggio. Dice questo, ascolta, eccolo qui, la pagina Facebook di Effetto Notte e gli altri al 349-238-6666 stanno arrivando. A proposito delle dichiarazioni di Berlusconi, di nuovo tornato a parlare del governo Renzi come di un governo illegale che punta al regime. Dice Marco, detto da Berlusconi assomiglia a una delle sue famose barzellette. Claudio, dico che è vero, ma purtroppo anche lui l'ha fatto quando governava. Vela, il discorso potrebbe avere un senso, peccato che detto da Berlusconi suona come il bue che dice del cornuto all'asino. Pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni, come gli sms al 349-238-6666. Ci ritroviamo a momenti. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci sempre, Roberto Giordano con voi come sempre tutte le sere dalle 21 alle 22 per avere un quadro aggiornatissimo di tutte le notizie della giornata, le più importanti almeno dal mondo e dall'Italia, con in particolare alcuni argomenti in cui diciamo ci addentriamo con gli ospiti. Ne saluteremo un altro tra poco, però qualcuno deve mettere forse un cornetto acustico. Arriva un messaggio che dice: 1000 invasori arabi violentano e molestano pesantemente le donne di Colonia in Germania. Non importa questa trasmissione, ne abbiamo parlato lungamente ieri, avete espresso anche tante vostre opinioni, ancora adesso sulla pagina Facebook di Effetto Notte continuano le vostre riflessioni su quel fatto, ne parleremo anche nei prossimi giorni, ne abbiamo parlato anche stasera. Cornetto acustico oppure accendere puntualmente Effetto Notte alle 21. Poi altri ascoltatori che scrivono, ascoltatrici, Lena da Trento al 349-238-6666, per la prima volta devo dire che ha ragione Berlusconi, Renzi non ha mai vinto le elezioni, mentre Orfeo scrive: da che pulpito dice Berlusconi che il governo Renzi è illegale e punta al regime. Questa è la dichiarazione di Berlusconi che vi ho lanciato questa sera per commentare, per fare le vostre riflessioni, così anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Riprenderò tra pochissimo a leggere anche gli altri messaggi, però vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento e come qualcuno non avete sentito alcuni degli argomenti, almeno i titoli principali. La Corea del Nord fa tremare il mondo, test con la bomba a idrogeno, condanna dell'ONU che la definisce una grave violazione, ma ci sono dubbi che si tratti davvero della bomba H. Germania, le polemiche sulle aggressioni alle donne a Colonia, ad agire una rete di 1000 uomini di aspetto arabo-nordafricano. Migranti, paesi del nord sfidano l'Unione Europea, chiedono controlli o facciamo da soli, vertice straordinario intanto con Germania, Svezia e Danimarca. Inchiesta sul comune di Quarto, ne parleremo tra pochissimo. E poi laureati italiani, secondo Eurostat solo poco più della metà trova lavoro a 3 anni dal titolo. Addio a Silvana Pampanini, la miss del cinema popolare, se n'è andata a 90 anni ed è morto Pierre Boulez, maestro della sinfonia moderna. Per il calcio volano Fiorentina, Juve e Inter, KO del Milan, la Roma spreca e adesso in campo ci sono Napoli-Torino 1-1 ancora, no 2-1 per il Napoli, Napoli la rimonta, ecco poco fa, sì 2-1. Allora, dicevamo che in questi giorni, in questi primi giorni dell'anno, almeno negli ultimi due giorni, la scena politica è stata dominata dal Movimento 5 Stelle. Ieri, per l'addio al movimento dell'ex ideologo del Movimento 5 Stelle, Paolo Becchi, anche se ieri qui Effetto Notte ha detto: ma io non sono mai stato ideologo, che cosa si dice? Io sono stato iscritto, sono stato un simpatizzante. In realtà, insomma, diciamo, era stato anche forte ispiratore, che ha detto ieri: io lascio il Movimento 5 Stelle perché ormai è diventata la stampella di Renzi. Oggi invece monta la polemica sull'inchiesta che riguarda il comune targato 5 Stelle di Quarto, vicino Napoli. In pratica, dall'inchiesta del PM Woodcock, che cosa risulta? In particolare da alcune intercettazioni telefoniche risalenti al 1 giugno scorso, tra il primo e il secondo turno delle comunali di Quarto, delle elezioni comunali, che l'imprenditore Alfonso Cesarano, legato insomma in odore di far parte, di essere legato al clan camorrista dei Polverino, dà indicazioni in queste intercettazioni telefoniche di appoggiare al ballottaggio il candidato a sindaco dei 5 Stelle, che poi era Rosa Capuozzo, che è diventata sindaca effettivamente di Quarto. E diceva in queste intercettazioni Cesarano: adesso si deve portare a votare chiunque esso sia, anche le vecchie di 80 anni si devono portare là sopra e devono mettere la X sul Movimento 5 Stelle. Sempre Cesarano spiega al suo interlocutore in queste intercettazioni: l'assessore glielo diamo noi praticamente, lui ci deve dare quello che noi abbiamo detto che ci deve dare, ha preso accordi con noi, dopo così come lo abbiamo fatto salire, così lo facciamo cadere. E l'uomo di questo presunto patto inconfessabile, di questo patto con la Camorra, è Giovanni De Robbio, dei 5 Stelle, che è stato però cacciato dai 5 Stelle. Secondo alcune ricostruzioni, però parrebbe, insomma, quando ormai già era partita l'inchiesta, poi capiremo. De Robbio, in cambio di voti, avrebbe promesso a Cesarano, a questo imprenditore in odore di Camorra, la gestione del campo sportivo di Quarto e comunque di agevolarlo negli affari legati all'amministrazione comunale. Per riuscire nei suoi propositi, De Robbio avrebbe fatto pressioni attraverso dei ricatti anche alla stessa sindaca Rosa Capuozzo, facendole capire che per esempio anche la sua stessa abitazione era frutto almeno in parte di abuso edilizio e quindi che doveva secondare le sue richieste. Dunque, da queste intercettazioni risalenti, vi dicevo appunto, alle elezioni comunali, secondo gli inquirenti emergerebbe il sostegno della Camorra locale alla candidata pentastellata Rosa Capuozzo. Il PD attacca, per esempio il presidente Orfini in un tweet ha scritto: quando segnalai che a Ostia il clan inneggiavano il Movimento 5 Stelle, Di Maio disse che mi dovevano ricoverare, lo disse da Quarto, dove la Camorra vota Movimento 5 Stelle, così ha twittato Orfini. Nel nuovo centrodestra c'è Luigi Barone, componente della direzione nazionale del Nuovo Centrodestra e dirigente campano del partito del Nuovo Centrodestra, che dice: alla luce delle inquietanti notizie sulle intercettazioni sul sostegno dei camorristi a Rosa Capuozzo, sindaco di Quarto, ci aspettiamo un'azione di coerenza, che quindi Rosa Capuozzo faccia un passo indietro e dia le dimissioni. Anche Forza Italia è intervenuta in questa polemica. Baldelli, che è vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ha detto: e poi i vertici del Movimento 5 Stelle vanno in TV a difendere le preferenze. Allora saluto Rosa Capuozzo, sindaca del Movimento 5 Stelle, buonasera, la ringrazio intanto di aver accettato l'invito in un momento così complicato, anche se è vero, sindaca, che insomma il Movimento 5 Stelle a un certo punto deve dare una risposta, no, su questi fatti. In realtà noi l'abbiamo già data la risposta, la situazione è rimasta immutata dall'ultima insomma risposta che abbiamo dato 15 giorni fa, perché facevamo un comunicato stampa e varie interviste in cui abbiamo cercato di almeno io ho cercato di spiegare la situazione. La situazione nasce con la questione stadio, che come poi ho letto anche io delle intercettazioni, erano interessati alcuni imprenditori, in particolare quelli che lei ha nominato. Il punto è che l'azione dell'amministrazione è stata chiara e lineare, quindi se infiltrazioni ci sono state, non sono insomma riuscite, perché la gestione dello stadio è stata il primo motivo di scontro da parte mia nei confronti di Giovanni De Robbio, proprio perché lui aveva una visione che in quel momento per me era una visione politica, quindi erano pressioni politiche, dovuta al fatto che secondo lui la gestione da parte dei privati sarebbe stata più semplice per il comune. Ovviamente il programma elettorale nostro non era questo, perché lo stadio in particolare, ma tutta la gestione dello sport doveva essere, secondo il nostro programma e secondo la nostra linea, gestita dal comune in prima persona, senza nessun privato che si interfacciasse e con cui avere una convenzione, proprio perché usciva da una situazione di gestione della camorra, era comunque stato insomma sequestrata la gestione di questo stadio ed era un punto di forza importante in su cui noi avevamo mosso la nostra campagna elettorale. Quindi ci siamo mossi nella gestione dello stadio come comune, infatti adesso lo stadio è comunale, non viene gestito da nessun privato. Lo scontro è stato così forte per quelle pressioni politiche che Giovanni De Robbio poi non è stato più Presidente del Consiglio e si è allontanato man mano sempre di più dal programma, dalle linee, fino allo scontro sempre più forte, fino all'espulsione. Poi ci sono state le indagini e poi tutto il resto, insomma, adesso è un po' sui giornali, un po' confuso perché la linea non si nota molto, perché insomma poi non viene fuori che l'amministrazione ha gestito lo stadio e tutte le attività sportive in questo modo, quindi come comune, con lo sport sociale, noi abbiamo fatto delle tariffe basse, ci siamo sedute con tutte le associazioni, abbiamo fatto il regolamento, un tavolo di lavoro di democrazia partecipata, per cui adesso le tariffe sono così basse che le quote di iscrizione saranno basse. Inoltre queste associazioni, se si interfacciano con i servizi sociali del comune e mettono nel loro interno dei bambini con problemi disagio, di famiglie disagiate, avranno un ulteriore sconto per utilizzare lo Stato. Senta, è un sindaco... bellissimo progetto che noi abbiamo portato avanti, a prescindere dalle eventuali infiltrazioni che ci hanno tentato insomma di fare pressioni di arrivare a noi. Senta, sindaca Capuozzo, lei però le ha denunciate queste pressioni che arrivavano da Giovanni De Robbio? Le aveva denunciate al tempo? In realtà, se, viste adesso, vanno un altro senso, però in quel momento erano pressioni politiche. È una visione completamente diversa la questione politica. Poi si arriva all'altra questione, quella della casa e tutto, però anche in quel caso non ci sono minacce, quindi non si può denunciare una non minaccia, sarebbe stata una calunnia da parte mia, un interessamento di questa persona che mi diceva che c'erano dei problemi, di non preoccuparsi, ma non c'è stata mai nessuna minaccia, quindi fondamentalmente non poteva esserci una denuncia da parte mia. Sindaca, senta, ma dalle intercettazioni dove questo Cesarano dice adesso si deve portare a votare chiunque, anche le vecchie di 80 anni si devono portare là sopra, devono mettere la X sul Movimento 5 Stelle, lei ha mai detto che non vuole i voti della camorra o di chi è collegato alla criminalità organizzata? Assolutamente, io voglio sperare che tutti non vogliano i voti della camorra, i voti della camorra non li vuole nessuno e ovviamente soprattutto non li vuole il Movimento 5 Stelle, ma noi abbiamo avuto un plebiscito, abbiamo avuto il 70% di voti, abbiamo avuto 10.000 voti, visto che si possa pensare che questo sia fatto i camorristi, in effetti non accetto, perché quei voti non sono voti tutti di voti camorristi, noi siamo saliti con una percentuale altissima e fatta di persone oneste, quindi non sono voti inquinati, comunque... non è un voto inquinato, dice quello che l'ha eletta. Assolutamente no. Assolutamente no. Senta, lei non ha avuto avvisi di garanzia in questo momento nell'inchiesta, non è no. Indagata. No, sono parte lesa. Quindi ecco, diceva il Movimento 5 Stelle proprio in una nota diciamo in serata, noi siamo parte lesa, in che senso? Sì. Nel senso che non c'è stata nessuna infiltrazione che abbia superato insomma il consigliere che poi è stato espulso e poi si è dimesso. Ma se fosse in questa inchiesta dovesse emergere che effettivamente ci sono state infiltrazioni, che dei voti, molti voti sono stati portati dalla camorra, lei sarebbe disposta a dimettersi, sindaca Capuozzo? Guardi, io a questa domanda ho già risposto, però mi ho risposto anche prima, insomma, siccome il voto è stato alto ed è stato forte ed è stato plebiscito, non accetto di mettermi, perché in realtà non posso, per tutta la parte onesta che mi ha votato, perché tutte queste persone credono nel Movimento 5 Stelle, credono al cambiamento, ma soprattutto credono in noi come amministrazione qui sul territorio. Sindaca Rosa Capuozzo, io le auguro insomma che tutto finisca per il meglio e le auguro buon lavoro a questo punto. Assolutamente sì, la ringrazio. Grazie. Buonasera e buon anno. Abbiamo sì la viabilità, ci sono vari vostri messaggi, però direi aggiorniamo chi sta tornando dal ponte della Befana o chi sta andando verso questo punto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso ve le ricordo velocemente le notizie, anzi in pochi secondi, vedo vostri altri messaggi, per esempio sulle dichiarazioni di Berlusconi che dice appunto che il governo Renzi è illegale, che nessuno l'ha votato, che è ormai un regime, dice questo ascoltatore, il bue, l'asino, il cane, perché dice il bue, dice cornuto l'asino, e dopo dice morale, Berlusconi ha detto una cosa corretta, punto, secondo l'ascoltatore. Continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e con gli sms al 349 238 6666. Intanto le notizie più importanti importanti. Ve le ricordo, sono il test con la bomba H annunciato dalla Corea del Nord. Effettivamente i sismografi di Corea del Sud e Giappone e Stati Uniti hanno registrato un sisma nell'area di 5,1 punti Richter, anche se ci sono dubbi che effettivamente si sia trattato di una bomba a idrogeno. L'ONU condanna comunque questa violazione e lavora a nuove sanzioni. I tedeschi sotto shock per le molestie a Colonia contro le donne, primi indagati dalla polizia, i 1000 uomini hanno aggredito le donne, forse una rete organizzata. E poi migranti, i paesi del nord sfidano l'Unione Europea, chiedono controlli o dicono facciamo da soli, intanto c'è stato un mini vertice con Germania, Svezia e Danimarca. Vince l'Inter, volano Fiorentina e Juve, il Milan fa crack e in Serie A adesso Napoli e Torino sono sempre 2-1. Adesso invece tra i fatti della giornata saluto il professor Andrea Ichino, docente di economia alla European University Institute di Firenze, autore di Facoltà di scelta, una modesta proposta per salvare l'università. Buonasera professor Ichino. Buonasera. Dicevo, fra le notizie del giorno le chiedo di commentare questa veramente piuttosto diciamo così sconfortante, perché secondo i dati Eurostat, che è l'omologo del nostro Istat a livello europeo, solo il 53% dei laureati italiani lavora a 3 anni dalla laurea, contro una media europea che è dell'80,5%. Per esempio do il dato tedesco che è del 90%, cioè dopo 3 anni il 90% dei laureati lavora, in Gran Bretagna l'83% dei laureati e in Francia il 75,2%. Come mai siamo messi così male? Siamo proprio in fondo alla classifica, professor Ichino. Sì, è un dato sconfortante. Io vedo 3 motivi che possono spiegarlo. Il primo è ha a che fare con il modo in cui i giovani italiani scelgono il loro percorso universitario. Il secondo ha a che fare con il modo in cui è organizzata l'università italiana, troppo rigido, centralizzato, incapace di adeguarsi ai tempi, e il terzo è il mercato del lavoro. Ma forse il primo è quello su cui riflettiamo di meno che può forse interessare di più agli ascoltatori in prima battuta, cioè pensiamo per un momento a come i giovani italiani scelgono che università prendere, che facoltà prendere. Tipicamente prendono questa decisione a settembre dopo la maturità, in un tempo molto contenuto, senza quasi mai aversi pensato prima. Ed è una scelta affrettata e spesso non ben meditata. Il risultato è che un'altra indagine ISTAT dice, per esempio, che soltanto a un anno di distanza dalla scelta, dal primo anno dall'immatricolazione, il 30% degli studenti italiani è scontento della scelta fatta. Ora, in altri paesi la scelta del percorso universitario è invece fatta nell'anno precedente, nell'ultimo anno di scuola superiore, in modo molto più meditato, con più tempo per pensarci, visitando diverse facoltà, diverse università per scegliere quella ideale, ed è fatto soprattutto con l'ausilio delle scuole superiori, che fanno un'autentica attività di counseling, di consiglio agli studenti nella scelta della facoltà migliore per loro. Questo sarebbe molto importante, quindi non solo le facoltà che indirizzano verso maggiore opportunità di lavoro, ma anche quello che uno più si sente di fare, perché magari intraprende un corso di studi che non era adatto a lui o lei. E assolutamente, e il problema è che mentre le scuole superiori degli altri paesi sono scelte dalle famiglie, giudicate dalla collettività, anche in base al successo universitario e professionale dei loro studenti, le scuole superiori italiane non si preoccupano minimamente di questo, perché nessuno sa mai o si chiede nemmeno se andare al liceo A o al liceo B abbia risultati migliori o peggiori nel proseguo della carriera. E invece all'estero questa attività è fondamentale, perché le scuole tengono e scrivono nei loro siti, informano gli utenti, tengono a che risultato hanno i loro studenti. Certo. E questo è un primo punto fondamentale che rende molto difficile per i ragazzi italiani fare una scelta informata. Il massimo che le scuole organizzano sono gli open day, in cui le università come piazzisti vengono a presentare la loro merce, ma questo non è counseling sulla scelta universitaria, questo è un venditore che viene a vendere la sua merce. Io quando vado in una facoltà, una scuola superiore, a dire quanto è buona l'università di Bologna o l'università in cui sono adesso, sto cercando di vendere il mio prodotto, non sto cercando di aiutare gli studenti a fare la scelta. Ha perfettamente ragione, professor Ichino, e forse in una prossima, tanto ogni tot c'è una riforma scolastica, bisognerebbe tenere presente anche di questi aspetti, no? Sicuramente sì, e in realtà questa è una cosa che non ha bisogno di una riforma scolastica, basterebbe che le scuole italiane cominciassero a preoccuparsi di più di quello che fanno i loro studenti. Poi ovviamente c'è il secondo problema grosso, è come organizzata l'università italiana, questo ha più a che fare col libro che lei gentilmente ha citato prima, cioè è un'università centralizzata, organizzata in modo molto rigido, con programmi che sono decisi dal Ministero centralmente, e le università non hanno quell'autonomia necessaria per adeguare la loro offerta formativa a quello che è il mercato. Collegata al mercato del lavoro, certo. E se lei pensa che tutti i programmi ministeriali sono dei corsi di laurea, sono decisi centralmente al Ministero una volta per tutti, ed è complicatissima la procedura per poter modificare un esame, aggiungerne uno, togliere un altro, cambiare un professore, assumere professori con stipendi competitivi a livello internazionale. In Italia questo non è possibile perché vige solo lo stipendio basato sull'anzianità, e anche questo rende il sistema universitario incapace di rispondere alle esigenze del tempo. Professore Andreichino, io direi che ha, naturalmente, visto la sua competenza, toccato dei punti cruciali. Ci auguriamo davvero che affinché questi dati così desolanti, solo il 53%, ripeto, dei laureati italiani lavora dopo 3 anni, possano cambiare. E davvero, quando si pensa alla scuola e al mercato del lavoro e alle riforme, eccetera, si pensi soprattutto a metterle in collegamento, a fare in modo che davvero lo studio poi sia un'opportunità per trovare presto, per entrare presto nel mercato del lavoro. Grazie, professore Andreichino. Grazie a voi. Grazie, buon anno. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Viva Las Vegas, dove è il nostro Enrico Pagliarini. Una volta lo troviamo in fila per andare a vedere il film Star Wars, un'altra volta è lì che si diverte a Las Vegas con il country, con andando, mi sei attaccato alla slot machine in questo momento, Enrico Pagliarini, dove sei? Guarda, sono alla sala stampa del Convention Center. C'è questo mito che alla ci si diverta solo. In realtà Las Vegas è diventata una meta per le fiere, perché nei periodi di bassa stagione questi mega hotel devono in qualche modo essere riempiti, e quindi è stato creato un business park delle fiere, e quindi molte persone che vengono a Las Vegas in realtà non è che vengono a divertirsi. Poi Enrico, scusami un attimo, io so che tu sei a divertirti, ma anche al Consumer Electronics Show, questo CES, che è la fiera della tecnologia, anche se l'apparecchio che tu stai usando non è così tecnologico, perché ti sentiamo intermittenza, dico tu vai lì e poi mi parli intermittenza. Sapere che qui ci sono alcune migliaia di giornalisti e siamo tutti attaccati alla rete Wi-Fi, e quindi c'è un po' di congestione. Chiedete di più traffico. più potenza perché è importante il collegamento con Effetto Notte, con Radio 24. Senti, che quali sono i prototipi? Adesso durerà questa fiera fino al 9 gennaio lì a Las Vegas. I prototipi più interessanti, sì, quali sono? Guarda, allora direi il principale era, parliamo di realtà virtuale, parliamo di visori per la realtà virtuale. Proprio oggi è stato messo in vendita, quindi è stato fatto l'annuncio qui al CES, l'Oculus Rift, che è un prodotto di cui si parla da moltissimo tempo, e finalmente lo potremo acquistare, perché arriverà sul mercato nei prossimi mesi. Si parla già di maggio-giugno, perché i primi arriveranno a marzo, ma sono stati già prenotati qualche ora fa. Che cosa sono i visori di realtà virtuale? Beh, sono dei visori che ci si mettono davanti agli occhi e si vedono o videogiochi oppure film che sono stati girati, video che sono stati girati con delle videocamere che già stanno uscendo sul mercato, che riescono a riprodurre tutto quello che noi vediamo a 360 gradi, e poi vengono inseriti in questi visori, e noi possiamo, girando la testa, essere immersi in una realtà appunto virtuale. Se ne è parlato da tanto tempo, però oggi le potenze, la tecnologia sono diventate diciamo alla portata quasi di tutti, perché stiamo parlando di prodotti che costano alcune centinaia di euro. Questo prodotto in Europa costerà 600 euro, però sicuramente stiamo parlando di prodotti che possono essere acquistati, insomma, no, non cose inarrivabili. Poi vi citerei e vi parlerei di televisori che diventano sempre più grandi, aumenta la definizione, avrai sentito parlare anche tu di 4K, Europa, e quindi di fronte a una definizione sempre più elevata, beh, i televisori diventano sempre più grandi. Pensa che la dimensione media ormai è di 40 pollici, ma qui abbiamo visto prodotti a... Bisogna avere anche una casa molto grande, non essere per metropi, secondo me, perché veramente diventa un po' complicato avere il cinema. Infatti devo dire che in alcune conferenze stampa questa è stata una cosa che è stata sottolineata, cioè che le case degli americani sono adatte a questi schermi perché sono tipicamente grandi case. Le nostre no, direi. E le case europee sì, questo sicuramente è un problema, però bisognerà trovare il posto, perché sennò è avere un 4K se la dimensione dello schermo è molto piccola, cioè non si riesce a godere di questa definizione. Poi abbiamo visto oggi è il primo giorno, quindi ancora abbiamo visto poche cose, però... Allora direi, Enrico, magari ricolleghiamoci domani con un maggior collegamento, magari dai una gomitata a qualche collega che si scolla dal suo collegamento, hai più potenza. Anche. Ci sentiamo domani. A domani a Las Vegas. Non ti divertire Grazie. Troppo. Ciao Enrico Pagliarini. Ciao. Ciao, ciao. Mentre si sta divertendo assai Dario Ricci, sempre guardando le partite di Serie A. Io ho sempre paura che Pagliarini si giochi lo stipendio alle slot. Speriamo bene, speriamo che il ragazzo metta giudizio. L'atmosfera era un po' quella. Peraltro bellissimo sentire insomma questi racconti di questo futuro che è già adesso. Tra l'altro con quei televisori ci possiamo godere la Serie A, anche questo che abbiamo a debita distanza. Sì, ma anche per noi che siamo occhialuti, appassionati. Tra l'altro un Napoli che al settimo della ripresa è sul 2-1 sul Torino, lo ricordiamo il gol al 15° di Insigne con lo splendido pallonetto, al 32° un'ingenuità di Goulam che allunga la gamba laddove non dovrebbe, sullo stinco di Bruno Perez, inevitabile il calcio di rigore che Quagliarella, grande ex, trasforma 1-1, ma poi Napoli che torna in vantaggio al 41esimo ancora con Insigne protagonista, è lui che confeziona l'assist per Hamsik che trova sulla sinistra un corridoio dove si infila e riesce a far passare anche il pallone tra le gambe del portiere Granata Padelli, 2-1 che in questo momento si è confermato fino al 90esimo, lo ricordiamo siamo appena all'ottavo minuto della ripresa, permetterebbe al Napoli di rimanere agganciato alla Fiorentina a quota 38, alle spalle dell'Inter che è a 39 e alla Juventus leggermente più staccata a quota 36, cara Roberta. Diciamo che abbiamo detto praticamente tutto. Dario. Diciamo che la giornata comunque è segnata anche dal KO del Milan. Del Bologna, no? Il Bologna, risultato? È 1-0, 1-0 per il Bologna, quindi i fischi di San Siro, la contestazione a Galliani e la panchina di Mihajlovic che a questo punto è sempre più traballante, un Milan che sabato, lo ricordiamo, affronterà proprio la Roma all'Olimpico, Roma oggi bloccata sul 3-3 dal Chievo, insomma una partita davvero decisiva, direi, sia per il futuro di Rudy Garcia che per quello di Mihajlovic. E allora sicuramente ci sentiremo con Dario Ricci. Ciao caro Dario. Ciao, buonasera. Voi continuate sulla pagina Facebook Effetto Notte, che è sempre lì anche quando finisce la trasmissione, ma ci risentiamo alle 22:00.